Non ho mai conosciuto nessuno che siete messe tutto chiuso dentro così. Certo. Io tiro fuori quello che sento con la mia musica. Forse se tirassi fuori quello che senti nella vita, anche la tua musica migliorerebbe. Shh, sta zitta.